sognare. Figli miei guerrieri senza tregua, partiamo per difendere Sparta oramai preda. Alle Termopili correre dobbiamo, sopra lo stretto passaggio li aspettiamo. Davanti a noi scopriranno la paura, dietro a noi dei cadaveri le mura. Siete in pochi ormai nella rete, finché abbiamo non passerete. C'è Cetalia e salvi sarete, venite a prendere se ci riuscite. Ade vi prenderà, vi divorerà, non c'è più scampo per voi, ne vieni in fuga. Ade vi prenderà, vi divorerà, non c'è più scampo per voi, ne vieni in fuga. Quello in cui crediamo, voi ci ammazzate ma non indietreggiamo. Sguardo dritto fisso è l'obiettivo, Serse non deve ritornare vivo. Uomini liberi contro te tiranno, ecco gli storici cosa indicheranno. Prima che la battaglia sia finita, il tuo sangue uscirà da una ferita. Siete in pochi ormai nella rete, finché abbiamo non passerete. C'è Cetalia e salvi sarete, venite a prendere se ci riuscite. Ade vi prenderà, vi divorerà, non c'è più scampo per voi, ne vieni in fuga. Vi prenderà, vi divorerà, non c'è più scampo per voi, niente di fuga. Ade ci prenderà, ci sotterrerà, non c'è più scampo per noi, resta fuga. Ade ci prenderà, ci sotterrerà, non c'è più scampo per noi, resta fuga. Figlio di Sparta, scartarmi non può. Leonida bastardo, io ti tradirò. Se un uniforme da Serse avrò, agli immortali il sentiero mostrerò. Ci prenderà,